Radio 24. Libera la voglia di fare. Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa. Stringiamoci a coorte, l'imposta è più forte e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Di Carlo Alberto Carnevale Maffè, Oscar Giannino, Mario Seminerio e Renato Cifarelli. Ed eccoci qua, cari ascoltatori, alle 10:08 prime 30 secondi di questo sabato 13 maggio, a tenervi compagnia dalle 10 alle 12 in diretta e a sperare che voi abbiate anche la voglia, l'interesse di chiamarci all'800240024 e compari dei conti della Belva. Mario Seminerio. Carlo Alberto Carnevale Maffè. E Renato Cifarelli, che ci raggiungerà più tardi, reduce dalla una delle tante fiere internazionali dove porta la sua azienda, questa volta in Spagna. Oscar Giannino naturalmente si saluta e vi ringrazia come sempre. Anche lui, ultimo di cotanta schiera, e vediamo di cosa parliamo oggi dei due grandi blocchi della trasmissione. Dopo, naturalmente, come tutte le volte, l'inizio dedicato a fare un punto dei dati in Italia e all'estero con Mario Seminerio. Abbiamo un blocco dedicato con Tommaso Nannicini, professor Tommaso Nannicini. È sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, oggi alla testa della squadra che redige il programma per il PD in vista delle prossime elezioni, padre nobile, diciamo, addetto al disincaglio, con successo portato poi a esito positivo, della legge per il diritto sui lavoratori autonomi, che questa settimana, diamogliene atto al governo e a tutti coloro che hanno cooperato, è stata approvata definitivamente in Parlamento. Trarremo spunto da questo perché in quei 26 articoli ci sono dei diritti tutelati, si poteva far meglio, io sono su alcuni due punti un po' critico, ma insomma dei diritti tutelati in maniera finalmente nuova. Si riduce la simmetria verso il lavoro dipendente, c'è lo smart work, cioè il lavoro agile, disciplinato, un po' troppo con una mentalità retrograda secondo me, comunque è un passo avanti. E con Tommaso Nannicini ci interroghiamo un pochino anche sulle sfide di questo mondo un po' bloccato, riferimento secondo me all'editoriale di Dario Di Vico oggi sul Corriere della Sera sui due limiti di chi si dice socialista riformista però continua poi a sperare più nei soldi dello Stato che a soluzioni di mercato. Secondo grande blocco è anche, a maggior ragione dopo il G7, la settimana che torna a gonfiare le vele dei tassaioli di Stato contro i grandi gruppi dell'economia digitale, la big tax, la web tax. Il ministro Padoan ci dice lo faremo solo con una soluzione condivisa all'interno del G7, e questo può avere una logica perché chi la fa per i fatti suoi va a sbattere la testa e si fa del male, però contemporaneamente ci dice lo stesso governo che la mette, ne fa un'anticipazione per così dire nazionale, solo per far reggere i saldi di cassa, per dichiarare di avere delle entrate per poi scoprire magari che non le avrà come sempre, le anticipa nella manovra. Lo fa anche per coprire il vergognoso e malinteso regalo alle banche che veniva dalla norma della stretta dell'ACE per le imprese. Guardate, le conferme oramai vengono un giorno sì un giorno no dell'incapacità di capire cosa si scrive nelle norme, perché quello che è avvenuto con l'aiuto alle banche della stretta degli incentivi alla capitalizzazione per le imprese è veramente un esempio comparato in sinossi da mettere nei manuali di che cosa il politico non deve fare quando scrive le norme. Allora, parleremo di questi due grandi blocchi, quindi contenti lavoratori autonomi del nuovo passo in avanti, prima questione, e secondo, ma davvero ha senso usare come una clava la minaccia di tribunali per inventarsi delle basi imponibili che nascono dalla mancata interpretazione e comprensione di come funziona il mercato globalizzato, perché poi alla fine la web tax è questa. Ieri, cari compari, mi è venuto da pensare vedendo di tanti obiettivi in tutti i continenti del malware lanciato, che forse era una reazione di qualcuno che diceva vabbè, spieghiamo ai politici in mezz'ora come funziona davvero questo mondo, cioè, no Carlo Alberto? Ma infatti era quello che volevo citare, cioè mentre questi pensano di inventarsi le web tax dalla sera alla mattina, 99 paesi del mondo, il più grande attacco hacker che si ricordi, tra l'altro che ha toccato anche ospedali, scuole, servizi pubblici, ci sta ricordando che invece che pensare a raccogliere fiscalità bizzarra, gli stati dovrebbero pensare a mettere in sicurezza. Anche questo è un patto che facciamo con lo Stato. Cioè, allora, di chi si occupa della sicurezza? E per me la sicurezza dei dati e dell'informatica è un pezzo del patto che ho fatto dello Stato. Se no, Far West, anch'io mi armo, tra virgolette, e mi arrangio da solo, ma a questo punto porto i dati all'estero, almeno là mi garantiscono che funzioni. Voglio dire che sono particolarmente incavolato, perché quella di ieri, quella sì che è un attacco alla sovranità dei popoli, non le stupidaggini che leggiamo talvolta anche su quotidiani molto vicini a noi. Grazie. Adesso, scusate, parliamoci chiaro, no, perché io adesso devo partire dalle frecciate. Se non siamo d'accordo con la pubblicazione dell'articolo del professor Alberto Bagnani, no, sole, io, no, ma io stavo parlando di, no, solito il sole, io non mi allo Zenith questa mattina è all'Azimut, no, come, ma dire, no, perché non è un, allora, posto dove, no, raccolgono soldi per, no, la gestione, non sono d'accordo. La differenza tra noi e chi augura il cappottini diabete, come ha fatto lui, l'indegno, è che noi dobbiamo discutere, se vogliamo discuterne, nel merito di quello che dice, non contro la persona. Per quello che mi riguarda, questa è la mia opinione. Certo che è così, assolutamente. Qual è il merito? Me lo sono perso. Di cosa stavamo parlando? Degli attacchi hacker, vero? Ecco, gli attacchi hacker, ecco, sento, no, che ci hai messo hacker, il riferimento. Ma per favore! Questo è un caso di attacco hacker alla carta stampata, al cartaceo. Dai, già li vedo i suoi commenti. Non ce ne frega un granché, diciamo. Vabbè, sì, comunque, esatto. Detto tutto questo, Mario, cosa vogliamo segnalare di altro? No, questa settimana mi è piaciuto molto l'intervento, l'ultimo di una lunga serie di 7 anni del presidente della Consob, Giuseppe Vegas, che, diciamo, in questa consuetudine ogni anno incontra i mercati finanziari. Essendosi se noi... persi nel frattempo, sì, diciamo, no, ogni tanto li incontra. Però la cosa bella è che, diciamo, Vegas ha questa aspirazione a riprodurre le considerazioni finali del governatore della Banca d'Italia, certo, nel senso che c'è questo contesto solenne dove addirittura il presidente della Consob si lancia in valutazioni macroeconomiche e lancia moniti politica del tipo monetaria, attenzione perché i tassi stanno per risalire, quindi sì, rimettiamoci, sì, sì, la maglia, i tempi stanno per cambiare, per cui, il che è assai poco, diciamo, coerente e centrato con la missione istituzionale della Consob, così come si può leggere sul sito della Consob medesima, per esempio, come dire, salvaguardare la fiducia e la competitività del sistema finanziario, la tutela degli investitori, prevenire e, ove occorra, sanzionare eventuali comportamenti scorretti e garantire la massima efficienza e la certezza delle modalità di esecuzione dei contratti conclusi sui mercati regolamentati, ma mettere a disposizione dei risparmiatori le informazioni necessarie per poter effettuare scelte di investimento consapevoli, che più o meno è assolutamente il mandato che negli ultimi 7 anni Consob ha svolto al meglio, diciamo, facendo sparire i famosi scenari probabilistici che, tuttavia, come dice il presidente Vegas, non erano imposti da alcuna norma europea e pertanto erano sacrificabili, esatto. E pertanto e più non dimandate, diciamo, ecco, per cui... poi vabbè, Vegas si è lanciato in alcune considerazioni sull'OPA, sui paesi cattivoni che si proteggono nell'OPA mentre noi siamo i più aperti del mondo, sul bail-in retroattivo che, certo, è stata una iattura, ma cioè, su tutte queste amenità, diciamo, tipici da chi difende il mercato e la trasparenza, sì, cioè, assolutamente, un filo logico coerentissimo, caro Mario. Sì, sì, no, ma proprio per la serie la competizione è il mio mestiere, diciamo, e soprattutto il grado di consapevolezza dei risparmiatori. Poi vabbè, diciamo, queste sono le authority che ci meritiamo, evidentemente sono il segno del tratto culturale del paese. Scusate se la voce diventa un po' più tagliente, però si fa veramente molta fatica a restare ironici quando si guarda determinata acqua, forse acqua, sono altri liquidi, che scorre sotto i ponti di questo paese. Non so se lo merita, e poi non so, la mia opinione è che rispecchi più che altro le opinioni di alcuni pezzi delle cosiddette classi dirigenti italiane, che hanno oramai, sono rinchiuse su se stesse, che non osano dirlo ma pensano che la moneta unica sia sbagliata, che non osano dirlo ma pensano che le istituzioni di tutela del mercato fondate sulla concorrenza del mercato proprietario siano sbagliate, perché ci vuole la tutela dall'alto, ci vuole la mano paternalista, che continuano a raccontare palle non avendo saputo e voluto esercitare il loro diritto dovere di impedire alle banche di piazzare le subordinate al clientela retail e si inventano la definizione di shock normativo sulla direttiva BRRD sulla in materia bancaria. Ecco, a me sembra che siano in realtà non comportamenti che confonderei davvero con la rappresentazione di una parte dell'Italia che c'è, ha studiato, sa, vuol stare nel mondo, è una parte passata. Ricordiamoci cosa ha fatto, insomma, Vegas viene da una stimabilissima carriera di funzionario parlamentare, poi è diventata politica, e già quello è uno dei mali del sistema, certo, italiano, perché la terzietà che dovrebbe far parte della funzione amministrativa e dirigenziale delle Camere, come funziona in parlamenti americani, parlamenti, certo, seri, si sporca e compromette. Ma se lo facciamo anche per i magistrati, manco si dimettono. Esatto. Dai, Oscar, ma questo è un paese dove fai il funzionario per farti cooptare alla politica, non per evitare di farlo. Oh, non è la terzietà, comunque, è convergenza perfetta. Comunque, da qualche parte in questo paese deve esserci una classe dirigente in potenza migliore. Speriamolo. Però si nasconde molto bene. Sì, diciamo, perché non crede alla possibilità che valga la pena sputtanarsi e perderci a provarci. O tentare questo di farsi punto cooptare da un sistema perché marcio dalle fondamenta e fare esempio una carrierina. Questo, ricordiamoci, chiedergelo tra 10 minuti a Nannicini, che è una persona che io dal punto di vista accademico stimo, e si trova di fronte a una scelta, perché adesso la scelta è vai in prestigiose università straniere oppure hai politica con Renzi, e vabbè, intanto torniamo tra un minuto. Conti della Belva. Ricordati che devi morire! Sì, no, mo me la segni proprio, non mi preoccupare. Ed eccoci qui, caro Mario, anche questa settimana, mamma mia, la voce va via al dirlo oramai, un bel report ci ha ricordato che siamo gli ultimi per la crescita attesa, vabbè. Ma sì, sono le previsioni di primavera, no? Della Commissione Europea, come le pulizie. A me ha colpito il fatto che la stampa italiana, praticamente senza eccezioni, si è cosparsa il capo di cenere e ha detto ma siamo ultimi. Cioè, è incredibile sta cosa, perché con gli stessi identici, fottuti dati numerici di quando a Chigi c'era Matteo Renzi, e adesso c'è una figura assai più flebile, la stampa italiana ha ritenuto di uscire dalla cuccia e di dire ma siamo ultimi. No, ma scusami, però posso dire una cosa che non verrà apprezzata da moltissimi in ascolto, che vi prego di cogliere come cosa ironica, però è il significato profondo di quello che ha detto la Serracchiani. Cosa ha detto la Serracchiani? Lo stupro è più grave se commesso, se commesso da un rifugiato. Profugo. Gentiloni è un profugo dal loro punto di vista. E no, è così. Infatti è commissariato, oramai litigano su tutto. Sono riusciti a inscenare un litigio sui vaccini per far vedere che il governo va commissariato. E quindi è più grave. Tutti quanti dicono oh, siamo ultimi. E così, no, siamo ultimi. Era però un avviso politico quello di Serracchiani. La cosa che a me è piaciuta molto è stato un intervento di Padoan in una lectio magistralis prima del G7 delle finanze che si sta svolgendo a Bari, dove praticamente Padoan ha detto l'austerità è una parola che non si sente più da tempo, il problema è quello di conciliare la crescita con la sostenibilità della finanza pubblica e quindi politica di bilancio ma anche riforme strutturali. Ora, premesso che da lassù o da laggiù il grande Max Catalano starà facendo la ola per questa frase di Padoan, proviamo a focalizzarci sul primo concetto. L'austerità è una parola che non si sente più da tempo, è vero. L'austerità non c'è più in Europa da 2-3 anni, soprattutto per questo paese che ha una posizione fiscale moderatamente espansiva da 3 anni grazie alla flessibilità. Allora, caro ministro Padoan, Se queste sono... E poi ci aggiungiamo la politica monetaria, che comunque è implicito. Solo per capire il quadro, che non è solo questione di politica fiscale, ma di politica monetaria e in generale di atteggiamento verso anche scelte di possibili investimenti pubblici che poi non vengono fatti in realtà. No? Esatto, per capire. Esatto. Quindi, caro ministro Padoan, se l'austerità è una parola che non si sente più da tempo, se abbiamo ancora una politica monetaria ferocemente espansiva, se abbiamo un contesto irripetibilmente favorevole e malgrado ciò siamo ultimi, questo avrà pure un cazzo di significato su questa terra per il senso comune oppure non riusciamo a unire i puntini e a dire che da A discende B, cioè che abbiamo avuto 3 anni di politica economica fallimentare, che abbiamo avuto 3 anni di cosiddette riforme strutturali che tali non sono. Quindi, caro ministro Padoan, io diciamo mi congratulo per la grande onestà intellettuale che lei certamente possiede, però forse bisognava fare un piccolo aggiuntivo sforzo per dire che qualcosa non ha funzionato nella politica economica italiana degli ultimi 3 anni, di cui Padoan è stato il guardiano. Quindi, diciamo, questo è il problema che diciamo già mi appare. Già non c'è l'austerità. Ma sì, guarda che ci vorranno 2 anni per convincere Renzi che non c'è l'austerità. Sì, non c'è l'austerità. Il problema è che Padoan ha pure richiesto, diciamo, ha espresso la sua preferenza per un ministro delle finanze europeo. Però un ministro delle finanze europeo, a parte che non si può avere prima di avere rovesciato come un calzino i trattati europei, e prima, per amor di democrazia, di avere dato assai maggior peso al Parlamento europeo. Però un ministro delle finanze europeo entra ed entrerebbe nelle scelte di politica economica dei singoli paesi. Cioè non si potrebbe più sentire opporre la frase di nazionalismo con le pezze al culo: no, in casa nostra facciamo quello che vogliamo, però ci dovete dare la flessibilità. Perché la flessibilità non sono soldi che ci arrivano da fuori, sono nostri soldi che vengono immolati per motivazioni prive di senso e che torneranno a darci la caccia tra qualche anno sotto forma di maggiori tasse o di tagli di spese, di un sistema di welfare e di una spesa pubblica che è già agonizzante perché è di pessima qualità. Per cui tutto si tiene, cari ascoltatori, tutto. E possiamo anche fare gli espedienti, come dire, dialettici in questo momento, ma poi alla fine il conto arriva. E se non si riesce a pagare il conto, si finisce a lavare i piatti. Ma che so che ti dica, io credo che ci sia una cattiva interpretazione di molte cose che in realtà stanno avvenendo. Per esempio, poi ne riparleremo nella quarta d'ora che abbiamo con il nostro amico Udo Gumpel alle 11:30, perché io parliamo lì delle 2 interviste importanti rilasciate da Schäuble questa settimana. Ce n'avevo anche una su Spiegel molto importante, perché la Germania sta facendo capire che dopo l'elezione di Macron ci si mette concretamente mano al cantiere europeo facendo alcune cose. Una di queste cose, cioè l'ESM potenziato, il Fondo Monetario Europeo, per capirci, che servirà anche, se secondo le intenzioni tedesche, se si fa e si tratta in quel modo, a intervenire sulle politiche di bilancio in maniera preventiva senza cambiare i trattati, e con elementi di cooperazione tra paesi forti e paesi deboli, cioè cogliendo a pieno il mantra che da anni viene dai paesi euro deboli, passa come se non ci fossero questi segnali nel nostro paese, cioè vengono considerati irrilevanti rispetto al litigio nella legge elettorale. Cioè l'ordine di priorità è questo, secondo le classi dirigenti politiche italiane attuali. Allora, lì c'è molto da interrogarsi, perché a me colpisce come, in termini negativi, dovrebbe essere l'interesse prioritario di un paese come il nostro per le condizioni che abbiamo di finanza pubblica e di banche, perché il problema continua a vederlo molto ingravescente, quello di dire: oh, finalmente tedeschi. Invece l'atteggiamento è: facciamo finta di non capire. Qualche paroletta sull'ingravescenza bancaria va pronunziata, però, cari amici, perché questa settimana secondo me abbiamo fatto un altro passo avanti nel disperato tentativo di prendere solo tempo, ed è un tempo che lavora contro per una volta dico il sistema paese, perché non lavora solo contro quelle banche, sto parlando di Siena, sto parlando delle 2 banche venete, ma ha delle conseguenze generali, non credi, Carlo Alberto? Sì, e comunque sai, io non credo che quei provvedimenti che di fatto fanno uno sconto fiscale colossale nell'ordine di qualche miliardo e mezzo alle 3 banche che hai citato saranno poi effettivamente accettati dalla BCE e dall'Unione Europea come effettivo capitale consistente. Quindi io tra l'altro devo dire ai nostri ascoltatori, avendo io fatto una trasmissione lunedì credendo più all'ipotesi della manina, cioè del fatto che quella norma di restrizione sugli incentivi fiscali delle ACE, che è una bastonata per le imprese, restringendo il numero di anni di applicazione da 7 a 5, facendo saltare il tasso annuale massimo di incentivo, concentra sul conto economico di quest'anno invece il beneficio per chi ha fatto molti aumenti di capitale, cioè le banche scassate. Quindi stiamo parlando di 900 milioni per Monte dei Paschi, che l'ha messo già nella trimestrale nella relazione, e per le due banche stiamo parlando intorno a 600 milioni. Però devo rettificare, perché poi entro 24 ore ho appurato che davvero l'hanno scritta senza rendersene conto, perché quando se ne sono resi conto hanno dovuto rendere atto anche ai giornalisti che chiamavano. Dice sì, è vero che poi c'è il precedente spagnolo per il quale l'80% di quell'incentivo fatto sul deferimento del fiscale sugli avviamenti sarebbe abbattuto dal punto di vista del regolatorio europeo, che non ce lo accetterebbe. Esatto. Come diminuzione, come aumento del cettuale. Quindi vuol dire proprio improntitudine allo stato assurdo. Esattamente, e quindi di fatto non è un regalo, ma è un tentativo sguaiato e diciamo, dal mio punto di vista, impresentabile, di fare un regalo sotto banco senza spiegarlo ai cittadini, cioè facendolo passare ancora una volta come tecnica. Invece, ancora una volta, guarda caso, si pensa di poter legiferare sul sistema bancario italiano in spregio alla norma europea. E vedi, un tentativo, lo vediamo anche nella relazione di Consob, un tentativo di delegittimare sistematicamente norme a cui ci siamo impegnati, e secondo me giustamente, perché la commistione fra politica e banche ha prodotto, o comunque è stata una concausa del disastro che abbiamo davanti. Mi dispiace dirlo, ma il governo non solo ha perso un'occasione, ne ha avuta una grandissima per dimostrare la totale incapacità di allinearsi alle norme europee. Pensate solo però a fare un paragone tra la quantità di piombo che tutti i miei colleghi mettono, giustamente lo capisco, è il rilievo politico dell'esplosione della polemica per il libro di Ferruccio De Bortoli sul ruolo di Mariana Boschi su Banca Etruria. Oggi Del Rio ammette che a propria volta ha chiesto alla Popolare dell'Emilia il salvataggio dell'Etruria e così via, dice l'ho fatto, mio dovere, e così via, rispetto al fatto che invece sulle questioni strutturali, cioè il fatto che più mesi passano più non sappiamo qual è il fabbisogno per Siena, uno, due, più i mesi passano più l'interrogativo diventa: ma davvero le due venete sono due banche in condizioni di essere solvibili? No, io questo però dobbiamo non chiarirlo, ci scommetto, cioè, più su non, questo, non per lo niente. Sono per ammissione del Consiglio di Amministrazione e dell'amministratore legato pro tempore, dicendo che senza un aumento di capitale non ci sono le condizioni per la continuità aziendale. Quindi dal punto di vista tecnico c'è una ammissione del Consiglio di Amministrazione, poi vediamo come verrà giudicata nel caso della combined entity, ma singolarmente parlando i Consigli di Amministrazione hanno già chiarito qual è il punto. E comunque Atlante 2 ha finito praticamente i soldi, ecco, per comprare a prezzi, come dire, da collezionista, delle sofferenze che temo valgano molto, molto meno. Tra l'altro, scusami, com'è che compri delle sofferenze di una good bank che è stata risanata quanto? 16 mesi prima? No, esatto. Girando a 18 su REV, no? Adesso quelle che sono rimaste, la migrazione da incagli a sofferenze prezzata a 32. Diciamo che, volendo essere ottimisti, la situazione sta migliorando, però no, questa è una battuta, ovviamente non fraintendetemi. È un pessimo gioco di prestigio, mi dispiace. Però come dice Vegas, che riprendendo, diciamo, Visco e non solo, le sofferenze vanno lavorate in casa, tirando la sfoglia, sì, con amore artigianale, diciamo. No, però guardate, adesso questa battuta che è totalmente incomprensibile al pubblico generalista, 18, 32 e così via. Spieghiamola, sì. Però detto questo, io la considero uno dei peggiori segnali di mancanza di credibilità, perché i mercati capiscono perfettamente che è una presa per i fondelli. E queste prese per i fondelli vengono celebrate sapendo che tanto pubblicamente non se ne parla. Dice: no, va bene, c'è una causa superiore in nome della quale vanno fatte queste cose. E io veramente rabbrividisco, professor Calaberto, ai tuoi colleghi, gli accademici, quelli che vedo che si insultano l'uno con l'altro sulla questione dell'euro, poi sulle questioni concrete però muti. Sai, qualcuno preferisce firmare perizie improbabili, ecco, con metodologie ispirate, se posso dire, al beneficio della Repubblica. Non so come dire, che sai. Vabbè. Ok, torniamo tra un minuto. Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali. Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus. Dibidi dobidi DAB. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Fratelli d'Italia, l'Italia l'è mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa. della belva. Ed eccoci tornati, stiamo tentando di riprenderci perché Mario ci stava facendo morire con una delle sue battute. È il famoso dottor Morte, no? No, no, perché voi non avete idea, Mario che appare come una serissima persona. Ma quando mai? Con, appare, qualche... diciamo, appare. Poi appare, in realtà appare in diretta scompare. Da Međugorje. Adesso, per favore. Okay. Allora, dunque, questa settimana, diamone atto. Uno dei passi avanti più significativi in materia di tutela di un pezzo è il mio, di mondo del lavoro, che ne ha molte meno tradizionalmente nel nostro paese, che ovviamente per storia dell'evoluzione ha nel rapporto lavoro dipendente la fonte di conflitti sociali, di espressioni politiche, il cambio della storia del Novecento con l'irruzione delle masse nell'agenda pubblica e nella politica. C'erano tante buone ragioni storiche per cui era così. Da un certo momento in poi non ce n'era più nemmeno una per cui il mondo del lavoro autonomo e delle partite IVA non avesse, non voglio dire in tutto e per tutto uguali, perché le forme di lavoro sono diverse, però insomma tutele garantite. E invece il governo Renzi intraprese questa strada, la cosa sembra incagliarsi, si è sbloccata e grazie anche, va riconosciuto, non solo al PD, al governo e a chi poi ha votato anche, ha cooperato al Parlamento in legge, ma all'allora divenuto segretario Tommaso Nannicini, il professor Tommaso Nannicini, alla fine è andata in porto questa cosa. E io il paese è fiscalmente uscito dal Novecento, posso dirlo, che finalmente abbiamo fatto un passo dal nuovo millennio. Come sempre tu esageri, perché sei costitutivamente renziano, ma questo non è mica un problema, è una caratteristica, si può essere più... Ho detto una roba renziana, no? Ditemelo! Cioè, sì, adesso una scusa, roba io dico, la parte, questa poi legge ha due grandi bipartizioni per chi la conosce, noi non avremo tempo per occuparci di tutti i dettagli, sulla seconda parte, quello del cosiddetto lavoro argile, io ho dei dubbi perché mi sembra che la testa organizzativa dei processi sia ancora molto novecentesca, perché il problema lì non è ho detto tanto... che siamo usciti coi piedi, mica però, con la testa. Però per essere... quindi coi piedi in avanti siamo usciti. Dai, madonna mia! Di silenzio, ragazzi, perché noi abbiamo con noi il professor Tommaso Nannicini. Buongiorno e grazie di essere con noi. Buongiorno, grazie a voi. Lei dovrebbe chiamare il suo collega professore, così Carlo Alberto, e stangarlo un pochino, perché questo è il più irresponsabile. Che io lo so che i politici... Ma lei è un politico, dai, o un professore ancora, Nannicini? Io al momento sono un professore, quando ero in quelle stanze però facevo il politico. Cerco di tenere separate le due le faccio una domanda, lei è libero di non rispondere. Ma lei nel prossimo autunno se ne va ad Harvard o si fa sedurre dalla politica? Nel prossimo autunno faccio un corso ad Harvard, non penso che sia di grande interesse per me e per i fuori studenti, ma Quindi ad Harvard ci contiamo? Sì, certo, faccio... No, perché io faccio tifo, perché io faccio il tifo. Te ne vuoi proprio liberare, Tommaso? No, fuori dai piedi! Contrario, ragazzi, è esatto contrario. Io faccio il tifo perché le persone che stimo, ecco, abbiano un riconoscimento e una più ampia interlocuzione fuori, nel grande circuito internazionale, perché mi sembra bene per loro, per l'Italia, per lo studente, questo io... Poi chi l'ha detto che non si può fare l'uno e l'altro? C'è gente che va a Chicago. Fermo. È un corso di 3 mesi, volete liberarvi di me, dovete fare un po' di pressione perché mi prendano più tutto. Non era questa la domanda. Allora. Poi comunque meglio Harvard che Pescara. Lo sapevo che... Parliamo di partite IVA, Oscar. Madonna dai. Santa, questa cosa è... No, ma lei deve capire che questi due ragazzacci qui, che te, l'approdo del professor Bagnai sul ponte che imbarca acqua da sole 24 ore e le ha sconvolti, perché non capiscono che invece è sbagliato, bisogna parlare. Guarda che sul ponte c'è l'albero maestro dove di solito si impiccava la gente. No, comunque sventola la bandiera. Vabbè, non rubiamo tempo al professor Nannicini, su. Sembriamo una compagnia di comici stamattina. Lo siamo. Ma cosa lo siamo? Sul ponte del sole 24 ore c'è l'acqua che irrompe. Scusate. Allora, professor Nannicini, dunque, guardiamo le cose come stanno. Lei ci potrà dire, e io lo capisco, intanto la legge l'abbiamo portata in porto. Lei mi ha anche pizzicato in pubblico, aveva ragione, perché io anche per questo riconosco che l'avete portata in porto. La domanda che le faccio è: io ci ho sempre creduto che voi avevate un'impostazione diversa. Quando vado a vedere come è scritta su alcune cose, anche su quelle più positive, la tutela per la maternità per esempio, la tutela per concessa per le gravi malattie che prima non c'era, con tutti gli amici di ACTA ci siamo battuti per quello eccetera, quando vado a vedere le formulazioni mi sembrano scritte meglio, e capisco anche quello per il mestiere che faccio, da i tecnici pubblici, in un caso dell'INPS, in un caso eccetera eccetera, che dicono vabbè sì, il diritto ok gliel'abbiamo dato, però siamo attenti a non eccedere pagare troppo. Quindi, per esempio, cosa voglio dire? I numeri dei mesi di contribuzione minima per avere diritto alla cosa della malattia sono concentrati in 12 invece che con come vanno i tempi per chi lavora con i committenti, ti può capitare un anno veramente di buco totale e così via. Faccio questo esempio per cui ottimi e lo riconosco le nuove tutele. Quando si va a scriverle, le si scrive in una maniera, però dice, vabbè, però non esageriamo. E allora a uno viene da dire, ma se io gli riconosco la cosa sulla maternità e continuo a riconoscere il diritto di recesso al committente, da una parte affermo un principio e io ringrazio, dall'altra eccoci qua, siamo un po' con le cose all'italiana. È sbagliato questa impressione? Beh, non del tutto, su alcune cose è chiaro che stiamo parlando di alcuni diritti che costano, e questa è una legge che ha una copertura di 50 milioni, quindi la coperta la puoi tirare come vuoi, ma quello deve coprire 50 milioni. Poi si lega a un intervento complessivo rispetto al mondo delle partite IVA e del lavoro autonomo, e sta nelle due ultime leggi di bilancio, penso al regime fiscale per i minimi e agli interventi sulla previdenza, comunque subito il taglio del cuneo contributivo, sul quale abbiamo avuto una discussione sui numeri, se volete ci torniamo. Quindi sta dentro anche l'investimento di bilancio di quei due interventi, Jobs Act del lavoro autonomo. Però questa era la parte che doveva concentrarsi molto sulle tutele nella committenza, rafforzarsi rispetto a possibili abusi di posizione dominante del tuo committente e rafforzarsi nel mercato con una serie anche di deduzioni di strumenti fiscali per investire sulla tua professionalità. E poi allargare un po' gli strumenti di welfare per i professionisti non ordinisti, per gli autonomi non ordinisti in gestione separata. Detto questo, c'è anche una delega. Che lascia stranze se viene esercitata da persone che hanno però la sua impostazione e non di altro tipo, perché naturalmente no, questo poi è il punto. No, questo dico, ho letto un post che aveva twittato, non so più se ieri o stamani, dove si guardava quella delega in maniera un po' preoccupata perché c'è un aumento della aliquota contributiva per fini assistenziali nella gestione separata. No, questo è un punto, perché io speravo che fosse, per così dire, chiusa definitivamente la finestra, perché la delega resta in teoria. La delega resta su questo punto. Ora, tutte le estensioni su congedi parentali e malattia che stanno nello statuto sono già finanziate, sono diritti nuovi esigibili. Se vogliamo andare oltre e rafforzare strumenti di welfare allargato ancora più forti, dopo l'operazione del governo Renzi di portare l'aliquota contributiva previdenziale al 25%, c'è probabilmente spazio, a questo abbiamo discusso a lungo anche con le associazioni che rappresentano quel mondo degli autonomi in gestione separata, per ritoccare l'aliquota assistenziale dallo 0,72 di qualche 0, per portarla magari all'1, a patto che ogni euro di quell'aumento torni, sia un diritto esigibile e subito. No, perché lei lo sa cosa temiamo noi poveretti di quel mondo lì, che si comincia dicendo concedete tra le associazioni di categoria la facoltà di esame al politico tecnico di far salire da 0,72 di qualcosa, e poi ci ritroviamo con la sberla. Io per quello dicevo, io speravo che la delega mettesse un limite alla discrezionalità annuale, per così dire, perché sennò io mi ritrovo persone di cui ho la massima stima come lei che mi spacciano per taglio di 8 punti dell'aliquota, quella da 33 a 25. Questo, se volete, che lei lo sa che non è così. Sto facendo un post, no, purtroppo è così, mi dispiace molto. Vi spiego anche, siccome sono un appassionato di effetti, diciamo, del dibattito pubblico sui comportamenti dei politici, vi spiego un po' la distorsione che negarlo mette nei comportamenti di un politico, anche del sottoscritto, se dovesse tornare a farlo. Questo d'accordo. Allora, facciamo una cosa: ci prendiamo un minuto di pausa, e poi così abbiamo più tempo per entrare nel dettaglio. C'è parecchio traffico, mi sembra, su questo punto, caro Tommaso. Ma io ho capito che adesso dove vuole andare, professor Nannicini. Cioè, il fine è sul politico. Attenzione, è un buon fine. Resta il fatto che un taglio poi c'è o non c'è rispetto a mancato aumento. Tra un minuto. Della belva. Eccoci qua, è con noi il professor Tommaso Nannicini, stiamo parlando della approvazione della legge sul diritto del lavoro autonomo, continuando a ragionare come appunto in un mondo separato, e si discuteva qua nel frattempo nella pausa su quanto quella intuizione di Marco Biagi di strumenti di regolazione senza distinguere lavoro dipendente e lavoro autonomo, esatto, restino Oscar, un po' però Oscar, ancora, diciamo che questa, che pure è una cosa intelligente, cristallizza un errore gravissimo, che è quello che la nostra Repubblica ancora divide le tutele per tipo di lavoro e non per la persona del lavoratore. E avere comunque cristallizzato questa genere di distinzione per me è una colpa, scusate, imperdonabile nell'eredità di chi ci ha rimesso la vita su queste cose qua e nel principio liberale che il welfare serve ai lavoratori e alle persone, non alle nostre categorie aristoteliche. Mi spiace Tommaso, su questo francamente lo so, come dire, però, la se delusione profonda restare si come era col prima pragmatismo. Senza tutele, certo. Ma meglio, fammela dire, cioè, il riformismo è questo, poi fare passi avanti concreti piuttosto che niente. Certamente. Ma eravamo su un punto, come interpretare il fatto che l'aliquota contributiva sta al 25 rispetto al massimo a cui poteva andare con deleghe attribuite, decisioni attribuite dal governo Monti, e se quindi il mantenerla ferma e poi farla anche scendere, ma senza che fosse arrivata a 33, consenta e abiliti a dire che è stata tagliata da 33 a 25, non essendo mai arrivata a 33, oppure no. Beh, allora ci spiega il professor Nannicini perché dice, perché lui ha sostenuto in questi giorni con alcuni di noi, incrociando i ferri, ma sempre con grande rispetto, no, quello è un taglio, perché? Ve lo spiego, dico anche, permettetemi, eviterei di citare una grande eredità come quella del professor Biagi per discorsi un po' ideologici, diciamo, e giacobini, insomma. No, no Tommaso, no Tommaso, pragmatico. Mi spiace. Era un giuslavorista molto pragmatico. Tant'è vero che ha fatto strumenti di regolazione soft alle molteplicità del mercato del lavoro. È chiaro che qua non cristallizziamo niente, nel senso stiamo allargando una serie di diritti al lavoro diritti, autonomo, sì, che nel nostro ordinamento c'è sempre stato, non è che abbiamo inventato il lavoro autonomo. Scusate, il 28, gli 8 punti di taglio del cuneo contributivo. Quando una legge dello Stato dice che dal 1 gennaio l'aliquota è al 33, quella non è una previsione. L'aumento c'è già stato perché c'è il potere coercitivo dello Stato e dice l'aliquota è al 33 dal 1 gennaio, anche se non è scattato l'aumento, è già legge dello Stato. Se io politico voglio ridurla dal 33 al 25, devo trovare i soldi per coprire 8 punti, devo trovare 400 milioni che tolgo agli asili nido, ai sussidi di disoccupazione, quindi sono soldi veri, non finti, che io devo coprire per tagliare 8 punti. Per questo il taglio è di 8 punti, perché nel bilancio dello Stato copro per 8 punti le coperture finanziarie, togliendole ad altri impieghi, facendo aspetti, una scelta politica. Aspetti. Poi mi potete dire, sono troppi questi soldi, dovevate spendere meno? No, no, l'obiezione non è politica, l'obiezione è tecnica. Questo dipende, come lei mi insegna, dal fatto che noi in contabilità pubblica facciamo i ragionamenti sul tendenziale. I ragionamenti sul tendenziale non sono i ragionamenti zero base sul reale della spesa. Qui non parliamo di previsioni, non parliamo di previsioni legate al PIL, niente. Lo parliamo sono del potere coercitivo che dice Parliamo della sul tendenziale finanza pubblica delle disposizioni entrate nell'ordinamento legislativo, esattamente come lei dice, come premessa, no? E questo è il punto. Certo. Però interveniamo su flussi che sono diversi da quelli reali della spesa esistente e dell'imposizione esistente. Questa deriva dal tipo di impostazione che noi abbiamo nella nostra contabilità pubblica, ma sugli effetti reali sa altrettanto come noi che in realtà il suo è un ragionamento teorico, non è pratico. Dipende dal fatto che come funziona la contabilità pubblica italiana. Infatti la politica dice di aver fatto grandi tagli di spesa pubblica che sono tagli in realtà del tutto potenziali, perché sono l'effetto della norma entrata in vigore, ma sono diversi da quello che si è speso l'anno prima, per essere chiari. Però ma questo no, io lo sapevo che era questo punto. Sono due argomenti molto diversi, sì, tra un'aliquota che cambia e le previsioni di spesa, perché sono proprio due concetti diversi. Le faccio un esempio. Per un pasticcio politico-legislativo, a un certo punto la sterilizzazione dell'aliquota delle partite IVA al 27, sì, è avvenuta nel milleproroghe a gennaio, quindi per un mese quell'aumento è scattato nel nostro ordinamento, esatto, davvero, per un mese. Quindi allora quello me lo ridate, visto che era già scattato, l'abbiamo diminuito di 4 punti perché era scattato al 29. No, quello sì. quello certo. È un paradosso, lo so, però adesso stiamo parlando di un investimento di 400 milioni per tagliare il cuneo a regime in equilibrio di 8 punti, che è costato tanto, sono 400 milioni. Io mi aspetto più la critica di dire: ma le aspettative pensionistiche sono tutelate col 25 invece no, no, no, no, mai fatto. Avete investito troppi soldi. Anche perché sennò se ci mettiamo a fare i tignosi su queste questioni storiche. No, per carità, queste sono critiche che capisco. Quello di negare c'è stato uno sforzo finanziario grosso per andare incontro a una richiesta di quel mondo, di tagliare quel cuneo contributivo, perché dicevano per noi è solo un costo, perché tanto in termini di aspettative pensionistiche ci basta tranquillamente il 25. Non riconoscere questo sforzo, che è un incentivo perverso al politico, perché io metto un aumento fra 5 anni, nessuno mi accusa, il politico ci sarà fra 5 anni a toglierle, spende 400 milioni, non si prenderà le responsabilità. Ecco, questo io apprezzo, io questo lo apprezzo del suo ragionamento, perché lei si pone il problema. Incentivo perverso. Ecco, si pone il problema di come non alimentare eccessivamente il ciclo della spesa. Questo è un punto indiscutibile. Posso chiedere, avrà sicuramente letto stamattina, professor Nannicini, l'editoriale di De Vico sul Corriere della Sera, che io condivido la prima all'ultima parola, perché quello che mi ci interessa capire anche, come potenziale contribuente, lei intellettuale, all'impostazione del PD dopo le prossime elezioni, vediamo come vanno i risultati. Ecco, quindi corsi ad Harvard sì, ma non troppo lunghi, perché sennò ci rimettiamo una testa importante. Questo è il mio giudizio e non sto sviolinando, il mio giudizio è questo qua. Allora le chiedo, Di Vico va al punto e dice: insomma, sti cavoli di riformisti terzavisti, gli ex, diciamo, gli eredi di una certa impostazione riformista blairiana, perché adesso non si tratta di fare le stesse cose in tempi diversi, però quando si tratta di capire, si tratti di globalizzazione, si tratti di web tax, si tratta che sembra sempre che poi un po' vengano meno alle loro grandi premesse intellettuali, che furono poi lo svecchiamento dei vecchi tradizionali partiti socialdemocratici, che oggi sono in difficoltà, perché alla fine sembra che poi di fronte a questi nuovi problemi continuino a guardare più a ciò che c'era prima dei terzavisti blairiani, cioè, e infatti dicano, più Stato, piuttosto che dare risposte ai problemi sia della distribuzione dei redditi, e quindi ricaliamo nei vecchi lavori, nuovi lavori, sia per quello che riguarda la fiscalità di fronte alla globalizzazione, però sembrano tornare a vecchie impostazioni socialdemocratiche nazionali. Secondo me ci becca, Dico, però uno come lei mi interessa capire che tipo di riflessione induce. Beh, confesso che non ho fatto i compiti e ancora non ho letto i giornali, quindi mi ha beccato. E detto questo, dal suo riassunto, sì, capisco la, come dire, la provocazione intellettuale. Su molte cose quella sfida della terza via, o chiamiamola come volete, resta aperta, nel senso che non sempre gli strumenti trovati per dare risposta sono all'altezza. Su alcune cose vedo però questa riflessione, sulla fiscalità internazionale per esempio non si tratta di tornare a nuovi strumenti, ma di capire come in un'economia più globale, no, più immateriale, bravo, faccio rubare base. Ho capito, ma se penso di farlo da solo contro gli altri, disintermedio a mio svantaggio, tutto qua. Vabbè, professor Nannicini, io lo so, le abbiamo rubato troppo tempo le nostre goliardate, però intanto Harvard sì, ma l'Italia è qui, per così dire. Torniamo a Poggiare Radio. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della belva. Eccoci qua e approfittiamo del rientro subito dopo la nostra sigletta, perché Mario ci diceva che è un ascoltatore. No, cioè un ascoltatore ci scrive: ascolto ogni sabato la vostra trasmissione, mio figlio si è convinto che la sigla sia il vero inno d'Italia. Ma è così. Caro ascoltatore, suo figlio ha ragione. Abbiamo fatto qualche piccola modifica costituzionale nel frattempo, senza sottoporla al referendum. Volevate le riforme, ve l'abbiamo date. Ve le abbiamo date, ecco. Radiofonicamente parlando. È così, ragazzi, cioè voglio dire, solo chi ha il sostituto d'imposta e non si fa il conto ogni mese non capisce che questa Repubblica è fondata esattamente su questo. È il nostro grido di dolore alla nostra amata Repubblica, alla nostra maniera, che dico, Oscar, dico bene, è un modo per, sì, per dire... Tanti ascoltatori si sono sempre indignati su questa storia, perché... però ragazzi, invece è amare l'Italia, esatto, farvi vedere che è un po' diversa da come ve la raccontano, perché il nostro interesse è amarla per quello che è, e cambiarla per quello che non ci piace di quello che è, e infatti vedremo tra poco parleremo di un'altra sleppa fiscale che denota una qualche incomprensione mentale nella politica su cosa nel mondo nuovo, che non è nuovo adesso, è nuovo da 20 anni, diventa il presupposto per andare alla ricerca dell'imposta, cioè la definizione dell'imponibile. Come si definisce l'imponibile in un mondo che non può tornare, cari sinistri o destri ottusi, non può tornare alla vecchia idea novecentesca di Stato nazionale coi dazi, altrimenti volete vivere in un mondo unilateralmente che si sottrae alla libertà dei flussi di capitale. Ma quindi chi sono questi? No, euro o altra gente? Perché mi pare che la definizione sia identica, tipo la visione del mondo e il tentativo di metterla a retromarcia. Ma il problema è che sono gli allievi rossi e neri di Fichte, rossobruni. È così, guarda che io filosoficamente è così, sono i presupposti dell'incomprensione del mondo globalizzato, di chi pensa che il mondo globalizzato sia la corruzione dell'anima, perché fa venire meno quella radice con la terra, il sangue, il nativismo, che da Pescara al comunismo è quello che muove intere generazioni di accademici che si sentono spossessati del fatto, ognuno a casa propria, di dire ai propri seguaci come realizzare il sol dell'avvenire, come realizzare la vicinanza tra terra e razza. Ecco, perché poi alla fine i due toni sono la stessa cosa. È vero. Beh, effettivamente i business plan del sol dell'avvenire assomigliano un po' a questo tono. Certo, anche ragazzi, se vengono approvati a larga maggioranza. Cappottini da mente! Cappottini! Portatemi via! Ma avete Luigi? Chi scrive sui giornali compromessi per decredibilità? Hai firmato! Hai firmato! D'ora in poi abbiamo l'argomento! La terza legge è finalmente violata! Va bene, ragazzi. I capotini d'abete sono quelli di Luigi Abete, immagino. Sì, okay. Sì. Beh, quelli sono quelli che però portano a fondo. Sono di ottima fattura, però. Il glorioso giornale. Detto tutto questo. Pausa. Giovanni da Torino, che invece ci chiama per chiedere di subordinate bancarie. Ma più che altro per parlare di subordinate bancarie in questo senso, ho sentito l'accenno prima all'intervento di Vegas che diceva che c'è stata una variazione normativa che ha cambiato lo status delle subordinate bancarie, per cui erano state collocate giustamente, correttamente. La cosa non solo è vera, in realtà è stata ripresa da Vegas, non so se in buona fede o comunque se lo sapeva o non lo sapeva, da un'audizione parlamentare in cui intervenne Carmelo Barbagallo, che è il capo della vigilanza di Consob, in cui dopo una difesa della Banca d'Italia. Dopo una difesa d'ufficio di quello che era successo con le quattro banche, Marche, eccetera, eccetera, scrisse questo, in sostanza che la variazione che c'era stata quando c'è stato il decreto di Renzi cambiava sostanzialmente la natura delle subordinate. La cosa è corretta perché noi ci siamo tra l'altro incontrati al comune di Ascosin, non abbiamo parlato. Quello che è successo alla subordinata è facile da descrivere. Immaginate che si sale su un aereo, ci sono i piloti, ci sono i passeggeri di seconda classe e ci sono i passeggeri di prima classe. Io in seconda classe, come Ryanair, salgo se salgo o non salgo, riesco a salire, ma una volta che sono sull'aereo arriviamo tutti assieme, perché la subordinata era subordinata solo in caso di fallimento, cioè se l'aereo non parte io riperdo il biglietto. Invece gli altri si riprendono il prezzo del biglietto. Quando è stata introdotta la normativa, però, hanno detto sostanzialmente che sull'aereo davano il paracadute agli altri e non a quelli che avevano la subordinata. Perché? Perché quelli che hanno la subordinata, come nel caso di Marche, eccetera, eccetera, quando l'hanno comprata perdevano solo se perdevano tutti. Quindi quando è stata collocata non erano strumenti complessi, avevano rendimenti oggettivamente bassi, ma corretti per il rischio legale che esisteva quando sono state comprate, vendute o collocate al pubblico, e la loro natura è cambiata dopo. E l'intervento di Barbagallo in audizione parlamentare, oltre che onesto, è anche da un punto di vista strettamente legale corretto. Posso chiederle che mestiere fa nella vita? Ci consenta di dissentire. Posso chiedere che mestiere fa nella vita? faccio il consulente finanziario facevo gestore di fondi comuni, ho fatto gestore in assicurazione, ho fatto lei ci sta richiamando al fatto che la tesi ufficiale spacciata dalla Consob e della Banca d'Italia è corretta. Noi se ci ascolta, invece ascolto. da anni da quando è cominciato il dibattito, e non c'era ancora questa trasmissione, per votare la BRRD, ma dopo, quando si sapeva che era entrata in vigore, sosteniamo che invece chi si trova traccia di questo nei documenti ufficiali della Consob della Banca d'Italia, chi aveva il dovere da quel momento in poi, sapendo che dal 1 gennaio di un certo anno sarebbe entrata in vigore la BRRD, doveva a quel punto richiamare gli emittenti alle Full stop. Non è che si possa andare a ritroso nel tempo e scegliere alla carta nella macchina del tempo, quello lo stanno facendo l'autorità di controllo. L'autorità di controllo spacciano una tesi per far dimenticare che nei loro documenti ufficiali c'era l'invito, ma loro non lo hanno esercitato e hanno continuato a chiudere gli occhi sul canale di un funding che era più conveniente per le banche, e mascherando e tacendo i rischi a chi ha preso le obbligazioni. La colpa non è della direttiva, non ce l'hanno imposto i tedeschi, sono i regolatori che hanno scritto una cosa nei documenti e l'hanno lasciata nel cassetto. E se fa su questo mestiere, io ci credo, lei lo sa invece, quindi di dare ragione alla Consob e alla Banca d'Italia a casa nostra. Comunque fammi solo precisare che l'articolo 34 della BRRD prevede il principio del cosiddetto no creditor worse off, cioè che non si possa incorrere in una perdita superiore a quella del regime precedente, quindi della liquidazione coatta amministrativa. Per cui nella sostanza, caro ascoltatore, la direttiva recepisce quella preoccupazione e quindi garantisce. La direttiva è stata elusa nel caso delle quattro banche, e le dico questo è un altro tema, però dire che è stata elusa è una cosa, dire che è retroattiva, scusi, è un altro tema. E lei sul fatto che quel decreto per le quattro banche sia una, diciamo, una lecchinata, siamo d'accordo ex ante. Ma stiamo parlando del fatto che Barbagallo e Vegas hanno ragione, la risposta è no. Non hanno ragione. E la pretesa che cambiare le procedure di risoluzione, cambiarle rispetto a quelle precedenti, che peraltro prevedevano la stessa gerarchia di strumenti, la stessa gerarchia di seniority. L'idea che si cambia un regime di risoluzione con le missioni a venire, e nel frattempo le vicende che succedono, a che cosa le applichiamo? Ma scusa. Poi una cosa. Io sono, voglio dire, capisco l'architettura del ragionamento dell'ascoltatore, cioè all'epoca, nel mondo in cui vivevamo prima, le subordinate implicavano un rischio remoto, certo, non un rischio nullo. Però quando cambia l'habitat, certo, ci sono popolazioni che si estinguono. Esatto. Se questo ragionamento vi sembra troppo cinico, allora ve ne dico un'altra. I tedeschi, per fare fronte ai requisiti del MREL, del Minimum Required Eligible Liability, hanno stabilito che possano cadere in bail-in obbligazioni senior preesistenti, cioè già emesse. Caro ascoltatore, se noi andiamo avanti a fare questo vittimismo e a salire sulla macchina del tempo, dimostriamo solamente di essere affetti da incapacità di leggere la realtà. Poi, se posso dire, Vegas, tra tutte le cose non particolarmente condivisibili che ha detto, ne ha detta una su cui magari riflettere: coinvolgere in un eventuale bail-in gli obbligazionisti fino alla soglia di 100.000 euro. Su questo possiamo discutere, perché era una delle proposte. Però tutto il resto, incluso il fatto che i gruppi di controllo delle banche, soprattutto delle cooperative, squattrinati per non mettere denaro di aumenti di capitale che servivano, hanno continuato ad emettere obbligazioni subordinate, è oggettivo. Ok, ci stiamo trovando. Della belva. Eccoci tornati in studio dopo un utilissimo chiarimento con il nostro ascoltatore sulle subordinate bancarie e così via. Andiamo a un'altra questione che questa settimana ci ha riconsegnato, ce l'ha riconsegnata e l'abbiamo già visto per l'errore incredibile compiuto dal governo con la stretta ACE, che non si è reso conto degli effetti di una stretta per le imprese che erano un regalo mal concepito per il conto economico delle banche, ma che non è traducibile poi in un riconoscimento da parte del regolatore europeo a pieno le cettuane, anzi per l'80% il regalo fiscale non entrerebbe nel miglioramento del CET1, da una parte. Dall'altra, cosa abbiamo visto? Abbiamo visto l'emergere anche lì ex post, non ci hanno sentiti prima su Airbnb il legislatore, noi abbiamo detto guardate, voi continuate a inseguire un imponibile dimenticando che chi non ha stabile organizzazione in Italia gli manca il presupposto per cui possa fare il sussulto d'imposta, aprono la norma, poi dopo che hanno approvato la norma si rendono conto i signori legislatori Augusti che sono i primi gli intermediari immobiliari a dire guardate, questa roba, il sussulto d'imposta è a carico nostro perché Airbnb non è in grado di soddisfare quello che voi avete scritto e che non avete ascoltato chi vi diceva come pensate di costituirlo questo presupposto di imponibile. Ora siamo di fronte a una nuova onda di marea che dice web tax, c'è chi dice addirittura bit tax, ma insomma web tax. Da una parte però Padoan al G7 dice correttamente guardate, c'è un'impostazione che è chiara e condivisa da anni, o ci si arriva a una regolamentazione transcontinentale, quindi nel G7 su base OCSE, oppure chi pensa di vie di fuga nazionali su questo, sulla base per così dire ricattatoria, ti fisso presupposti teorici calcolati sui ricavi dai quali dedurre una base imponibile, dai quali dedurre un'imposta, perché altrimenti ti stango se tu non accetti che fai una cosa simile, farà una brutta fine. Questo è quello che dice Padoan. Estorsione fiscale, ma dai, ma è un ricatto, una roba da chino di tacco sulla via Cassia. Parte, però chi fa il nostro mestiere deve scrivere, maggioranza e governo ci dicono, nel decreto la manovrina e in arrivo la web tax. Uno dice, ma ha ragione Padoan o hanno ragione loro? Ecco, questo è l'interrogativo di fondo, ed è un interrogativo di fondo, come dicevamo prima con Nannicini, che riguarda sempre lo stesso problema. Guardare la globalizzazione capendola oppure credere di ripristinare le basi per imponibili nazionali perché esisteva solo a livello nazionale la capacità fiscale, perché era un mondo con barriera alla libertà dei capitali e quindi chi ragiona così fiscalmente da una parte non capisce come lateralmente gettito non lo prenderà ma disintermedierà il proprio paese a vantaggio di altri, ma dall'altra soprattutto ha una testa che vi dice sia di destra o di sinistra che vuole tornare a un mondo separato. Questo è il punto di fondo. Per parlare abbiamo con noi il professor Dario Stevanato, che insegna diritto tributario all'Università di Trieste. Grazie di essere con noi questa mattina. Grazie a voi, buongiorno. E l'onorevole Sergio Boccadutri, deputato del PD, che abbiamo spesso notato e apprezzato perché su alcune diverse vicende come queste, quando si tratta di fisco, nuove forme organizzative delle imprese, confini e globalizzazione, non ha un pensiero scontato. Grazie di essere con noi, Boccadutri. Buongiorno. Boccadutri, in realtà, in primis, cosa ci dobbiamo aspettare nel decreto? Quello che dice Padoan o invece alcune delle diverse versioni tra boccia, eccetera, eccetera, circolate come via nazionale? Io lavorerò per la, diciamo, lodo Padoan, sicuramente. Anche perché la norma che propone boccia, a parte proprio dei limiti, diciamo, concettuali, ha proprio due cose che non sono accettabili. Cioè, il principio per cui o ti mangi sta minestra o ti butti alla finestra è inaccettabile, compreso il fatto che se non accetti io ti posso sostanzialmente controllare ad libitum qualunque anno fiscale, questo proprio è fuori dalla gratuità. L'altra cosa è l'articolo anche che praticamente dà un obbligo di stabilimento, come dice anche il professore, cioè un obbligo di stabilimento altro che stabile organizzazione. Dall'altro è il comma 11 che secondo me è proprio sbagliato, perché se mi stanno facendo un accertamento sul 2009 e io nel tempo magari mi accorgo nel 2014 forse lo sono, vorrei interloquire con l'agenzia, non lo posso più fare, non ha proprio senso, questo è proprio ridicolo. A me queste parole sembrano molto sensate, ma che sono principi però di civiltà giuridica e fiscale che prescindono però dal digitale, caro, cioè, Roberto, la cosa che mi interroga è, fa piacere che Sergio, qui non stiamo parlando di due visioni del mondo contrapposte, stiamo parlando di orientamenti che, come nel PD a sinistra, allo stesso modo nella destra italiana, chiamiamola per capirci, qualunque cosa sia, appunto, convivono esattamente gli stessi tipi di impostazioni diversi, a destra, a sinistra, eccetera, e lo stesso tipo di incomprensioni, chiamiamolo così, comunque di punti di vista diversi, il che dice molto sul fatto che poi i vecchi criteri sono sbagliati. C'è un nuovo criterio per il mondo regolato, ma per il mondo o contro il mondo? Ecco, io per esempio, a dire la verità, Carlo Alberto, noi abbiamo frequentato per anni la cosa di Vedrò con Enrico Letta, dove c'era Boccia, c'eri tu, c'ero io. Io fatico a vedere Francesco Boccia in questo mondo, di uno che è tornato a ragionare, bastone alla mano, io o accetti di sederti e decidere perché io ho bisogno di soldi o altrimenti io lo dedurrò dal tuo ricavi, eccetera, eccetera, e ti stangherò, come Boccadutri ha appena detto. No? Mi spiace vedere questo genere di derive, perché francamente sono incomprensibili, e mi fa piacere che persone come Sergio Boccadutri invece presidino il diritto fondamentale, che in Europa è un pilastro, cioè libertà di stabilimento, libertà di scelta imprenditoriale. Se decido di andare in Irlanda e in Irlanda mi trattano meglio che in Italia, però secondo me la colpa è anche vostra, di accademici. Sì. Stevanato, quanto conta come ci ha detto Boccadutri, in poche parole ma chiarissimo, no? Il fatto che ci sono due visioni nelle stesse famiglie politiche, è uguale a destra, che è sui presupposti come si determina un imponibile e un'imposta di fronte a soggetti che hanno dei ricavi da una fortissima concentrazione di innovatività di intangible, chiamiamoli così, senza voler assimilare troppo Uber da una parte, Airbnb dall'altra, Amazon dall'altra, Facebook e Google. Però, per capirci, non è che è colpa anche un po' vostra, professor Stevanato, cioè gli accademici, un tempo era pieno di professori di diritto tributario nei partiti, ce n'erano quelli di destra, c'erano quelli di sinistra, c'erano i Visentini, c'erano i Visco, eccetera eccetera, poi alla fine si è diventati ancillari solo per portare cassa al Ministero dell'Economia, e alla fine siete un po' spariti, perché è la vostra voce che non si sente su qual è il presupposto nella globalizzazione per una base imponibile che non appaia o il ritorno alla preistoria o non sia una base di elusione per trilioni di dollari. Ah sì, purtroppo devo essere d'accordo, cioè c'è una sicuramente mancanza di idee anche da parte degli stessi accademici, oppure ci sono accademici che propongono idee. L'altro giorno commentavamo quella della big tax, no? Nell'impossibilità, nella difficoltà di tassare i redditi, si fanno delle fughe in avanti, anzi direi delle fughe all'indietro. Perché la big tax propone addirittura di tassare il volume di dati, tassiamo i segnali elettrici, siamo a questo livello, no? Siamo a questo livello, è una versione moderna dei vecchi dazi medievali, insomma, indici non significativi in alcun modo della ricchezza che si vuole tassare. Peraltro quindi sono abbastanza costernato, è una idea di tanti anni fa di un consulente del Ministero dell'Agenzia delle Entrate canadese, che non si sognava minimamente, si chiama Cochrane, non si sognava minimamente di entrare nella storia come uno che avesse inventato chissà che, tanto è un'idea bizzarra, e invece... L'impressione che ho è che anche l'ultima, diciamo anche l'emendamento presentato ieri, credo, da Boccia, o la precedente iniziativa che avete ricordato, che tentava di un disegno di legge che tenterebbe di ridefinire in via unilaterale il concetto di stabile organizzazione, non ha chiaro una cosa, cioè che ci sono delle regole che esistono da quasi un secolo e che si sono via via consolidate, che prevedono la tassazione nel luogo in cui avviene la produzione del reddito, non in quelle in cui avviene il consumo. Il tema delle società che operano attraverso il web non è un tema nuovo, diciamo, pongono un problema che già esisteva, lo pongono magari in maniera più acuta, ma è sempre esistita la possibilità di operare in altri territori, di vendere prodotti in altri territori, mantenendo lo stabilimento, il luogo di produzione da un'altra parte. Quindi è un problema più ampio, che non riguarda tanto o non riguarda solo il rapporto tra il singolo Stato e l'impresa multinazionale, ma riguarda prima ancora di questo un rapporto tra Stati. Cioè qui occorre, e non c'è alcun dubbio, che l'unico approccio percorribile è quello da intraprendere in sede internazionale. Passa attraverso se lo si vuole fare e se gli Stati si metteranno d'accordo, una ridefinizione delle regole attuali. Cioè una ridefinizione che però appunto è tutta da progettare, che... diciamo con cui lo Stato produttore, in cui cioè non, diciamo, mantiene le basi fisse e senza collocarle nel luogo in cui c'è il mercato di sbocco, decide di fare un passo indietro e tutti fanno un passo indietro reciprocamente rispetto a tutti gli altri, e concede invece allo Stato in cui avviene il consumo di tassare un pezzo di quella ricchezza. Fino a quel momento tentativi unilaterali o con nuove ridefinizioni della stabile organizzazione, oppure ancora peggio, con velati ricatti in sede preaccertativa, in cui si dice ma se tu hai, sei in quella situazione allora forse potresti avere una stabile organizzazione, quindi è meglio che me lo chiedi così ti eviti guai peggiori, e io non credo che, porteranno da nessuna parte. Quindi, Dario, possiamo specificare che la web tax non è una questione di giustizia, è una questione di principi internazionali secolari e riguarda la distribuzione delle tasse fra stati, non fra stati e imprese. Non stiamo tassando le imprese, stiamo di fatto denunciando un principio di equilibrio e di rapporto fra stati, perché sennò la gente pensa questi ricconi che non pagano le tasse. Intanto vabbè, non pagano le tasse in maniera, se vuoi, intelligente, ma non certamente illegale. Ma secondo me il problema è il rapporto fra Stato italiano e, per esempio, Irlanda o Olanda, perché questo vale anche per il fashion, per il food, vale per qualsiasi esportazione. Dario e Carlo Alberto, io vi devo invitare a non essere, cioè non parliamoci tra noi. Il problema per i Sergio Boccadutri, e io mi metto nei suoi panni, per Sergio Boccadutri metto nei suoi panni non perché la pensi come lui, mi metto nei panni di un politico che la pensa come sappiamo dai suoi atti pubblici e ce lo ha dimostrato anche qui, ma che però i Sergio Boccadutri non è che possano prescindere, Carlo Alberto e Dario, dal fatto che alla gente arriva un messaggio inequivocabile, perché tutte le volte che c'è l'effetto di una transazione dopo richieste stellari dell'Agenzia delle Entrate e alla fine vedono Google tira fuori 306 milioni, Facebook ne tira fuori 318 e così via. Alla gente arriva, hai visto, troppo poco, allora avevano ragione quelli che dicono che gli stiamo consentendo il saccheggio fiscale mentre noi paghiamo fino all'ultimo euro. Perché i Sergio Boccadutri non possono non tenere conto del fatto che il bombardamento dell'effetto congiunto Agenzia delle Entrate, che alla fine è lei che fa la politica fiscale in questo paese, ricordatevelo, perché queste sono le dimostrazioni, lo fa con gesti spettacolari che inducono il cambio dell'opinione pubblica, è stato così in questi anni, la politica non può prescinderne, perché la politica, soprattutto per chi sta a sinistra poi, e come è giusto, storicamente è sacrosanto che sia così, non può permettersi di trovare di fronte a un elettore che dice ma voi non fate abbastanza però di fronte a quelli che non pagano le tasse. Quindi il problema, Carlo Alberto e Dario, è che chi la pensa come noi dovrebbe fare la rivoluzione a casa propria, in sede accademica, in sede di informazione, mentre noi ci parliamo tra noi ma non la facciamo. Allora, secondo lei, Boccadutri, sono troppo favorevole nel capire che quelli che come lei hanno un problema di cui non possono non tenere conto? Però io credo che sia un po' così per chi la pensa come lei e sta da quella parte politica. Ma Giannini, io sono d'accordo con quello che ha detto e mi sono molto stupito che un giornale, insomma, come il Sole 24 abbia spietato certi articoli sulla bittazione. Bravo! Cioè, francamente, cioè, quel che, per dircela chiaramente, se volessi offrirvi un caffè pagando con la carta di credito, pagherei su quello, su quel pagamento, su quella transazione, dovrei pagare una tassa, no? Perché quella viene su debit, no? Esattamente, cioè, no, così, così. Di cosa stiamo parlando? Bravo. E quando accade questo, significa che sta stato qualche cosa, che appunto il populismo ormai è ovunque, si è appunto arrivato ovunque, anche nelle pagine di un giornale serio come il Sole 24 Ore, che certi articoli, ecco, francamente non mi... Io devo dire la verità, sono contento che arriviamo a queste conclusioni e io devo richiamare però i miei autori molto più autorevoli, serie di me, compari, cioè Dario e Carlo Alberto, o ci impegniamo a casa nostra a fare queste battaglie o non pretendiamo che siano i Boccadutri da soli a poter fare gli argini, perché verranno travolti. Ma e dico, il problema non è PD, la mia non sto facendo polemica sul PD, no, è dovunque, riguarda qualunque famiglia politica, perché è una questione trasversale, l'onda animata vendendo formule facili che fanno peso su una forte pressione fiscale iniquamente distribuita, perché noi abbiamo la pressione fiscale progressiva solo sul lavoro nel nostro paese, dato di fatto oggettiva, determina il fatto che avranno successo coloro che pretendono l'impostazione di forme organizzative e societarie basate, la cui identità sta sugli intangible, che lo descrivono come un furto e una rapina invece che la nuova frontiera. Quindi riflettiamoci, cari amici, perché questo era il punto esattamente a cui volevo arrivare oggi. Tanto ne riparleremo, caro Dario Stevanato e caro Carlo Alberto, perché vediamo il Parlamento che fa. Viva Sergio Boccadutri! Lo so che lei non lo sapeva, ma purtroppo nella mia testa oggi serviva, sì, io sono un tifosissimo esattamente di a dire che i problemi sono a casa mia, come vede, non a casa sua. Mi dia atto che è un atto di, per così, un po' di onestà intellettuale, ma bisogna darsi una mano tra chi la pensa in un certo modo. Ci sentiamo tra un minuto. Vi presenta Fratelli d'Italia, l'Italia all'emesto, dai tempi di Scipio finita è la festa. morti della belva. Ed eccoci qua, tornati cari ascoltatori. Purtroppo Udo Gumpel, come sempre, siccome quello è una persona che prima vengono i suoi doveri nei confronti del suo editore, quindi c'ha un servizio in corso a Biennale a Venezia eccetera eccetera, pensava di fare prima, se non che hanno fatto slittare i tempi e quindi non può essere con noi. Di che cosa dobbiamo parlare con lui? Dobbiamo parlare con lui di sostanzialmente due cose, quasi tre, ma insomma due. La prima è il grande blocco del dibattito aperto sul fatto che Macron ha vinto le elezioni e tutti quanti. torna l'asse franco-tedesco, cosa che questo voglia dire, forse, bisogna vedere, forse. Il punto è se vince anche con la maggioranza propria le legislative di giugno. Devo dire che le cose stanno andando dal punto di vista della cronaca in maniera molto più favorevole a Macron di quanto io temessi, perché le proiezioni sui sondaggi, cosa significa? Sondaggi su cosa voterete alle prossime legislative, primo turno, gli si proietta sui 570 seggi che sono l'architrave su cui funziona il sistema elettorale francese, lo ricordo, doppio turno, maggioritario, soglia del 12,5% per andare al ballottaggio al secondo turno, si prendono i sondaggi di voto, intenzioni di voto, lì si spalma sulle serie storiche dei 577 collegi e si ricavano le chance incrociate di chi può andare oltre il 12,5% e a quel punto per affinità culturale organizzerà a proprio vantaggio o a vantaggio del partner con cui si fa un'intesa nazionale le desistenze. Funziona così. Su questa base Emmerich viene stimata oltre 200 deputati, vi ricordo che la maggioranza è 289 fino al 240. Che è un miracolo se ci pensi, visto. Beh, che, una cosa che non esiste, non l'avrei mai detto, vedremo, però fino a sto momento viva i sondaggisti francesi, devo dire la verità. Che sono stati precisissimi, veramente. E devo dire la verità, il casino che si è messo in moto è infernale, perché Valls voleva andarci, lui ha detto no, hanno detto no a metà dei deputati socialisti che si volevano candidare, accettano intellettuali di area, Bayrou, grande sostenitore centrale, ieri mattina ha fatto una polemica brutale dicendo stai riciclando socialisti. Vabbè, ma lui, e però ieri sera l'ha chiuso a mezzanotte. Juppé ieri sera smenteva brutalmente, non c'è alcun accordo con Macron. Ma perché dico questo? I toni in Francia sono i toni di tradizionali leader di partito costretti a urlare, perché oramai la forza è nelle mani di Macron. Quindi vedremo cosa succede. Però fatto interessante, Schäuble questa settimana ha fatto due interviste in cui ha detto chiaramente quali sono le intenzioni per andare avanti con Macron su un'Europea, ha parlato di questo ESM, una specie di fondo monetario rafforzato, ha parlato di passi concreti sullo Spiegel che riguardano la difesa, la sicurezza, la scuola e le imprese digitali. Quindi c'è prima cosa. Seconda cosa, dopo Schleswig-Holstein con mazzata dei socialisti tedeschi domenica scorsa, questo fine settimana ci sono elezioni molto molto molto più importanti, perché si vota in quello che in Germania è noto come il piccolo Bundestag, perché ci sono 18 milioni e mezzo di tedeschi nel grande land in cui si vota domenica. Anche qui le attese sono di una vittoria per la CDU-CSU, di una sconfitta per la SPD, e quindi tutto questo si va nel grande fiume Macron. Cari amici, voi come l'avete letta questa roba di Schäuble, del Fondo Monetario Europeo e di questa disponibilità a un'Europa? Perché in Italia i giornali hanno detto i tedeschi vogliono avere nuovo tallone d'acciaio sul nostro collo perché è troppo comodo, questo non significa cooperazione. Lui dice no, invece significa, perché se pensiamo al ministro, al super ministro delle finanze, bisogna cambiare i trattati. Esatto. Quella roba la possiamo fare senza trattati, serve. Però serve anche entrare nei bilanci dei paesi per evitare poi di fare la risoluzione a cui serve, chiaro, come il Fondo Monetario Europeo. Chiaro, però a me non sembra una cosa da sputarci sopra. Dialogo tra sordi. Perché? Tra l'altro perché secondo me ognuno intende una cosa differente, tranne Schäuble, che da anni dice sempre la stessa cosa e non ha mai cambiato idea. Sono gli altri che si fanno il cinema, si fanno la sceneggiatura e poi vanno a sbattere contro il muro della realtà. Io però volevo richiamare il fatto che per ricostituire il direttorio franco-tedesco occorre, giustamente, che l'economia francese faccia un lieve sforzo di riconvergenza su quella tedesca. Questa cosa è presente nel programma di Macron, perché di fatto Macron vuole, attraverso il solito blocco dosato del turnover, ridurre 120.000 dipendenti pubblici nel quinquennato della sua presidenza, vuole spingere la digitalizzazione e quant'altro. Ma sono le stesse cose, chiaramente dette con toni differenti, che diceva Fillon. Fillon era molto più truculento, perché Fillon voleva uccidere la Commissione europea, voleva creare il trionfo dell'intergovernativo, ma come un asse franco-tedesco, un direttorio d'acciaio, al quale gli altri paesi aderivano per orbite esterne, dopo aver risanato l'economia del paese e rilanciato. Faccio umilmente notare che le metriche di produttività francesi non sono molto lontane da quelle tedesche, mentre sono molto lontane da quelle italiane negli ultimi anni. Quindi l'idea è quella di avere praticamente una riconvergenza francese sull'economia tedesca, un'idea che, vista la situazione sociale in Francia, potrebbe essere una velleità, e dopodiché rimettersi a trainare. Sono idee molto teoriche che non hanno ancora visto la luce. Quindi aspettiamo le legislative francesi, la nomina del premier, il risultato di Republican March, e poi vedremo come va a finire. Certo, diciamo, non sta andando come la prosopopea della rivoluzione mondiale in corso sovranista, che ha intaccato le menti anche di molti giornali e giornalisti italiani e di moltissimi conduttori televisivi italiani e di moltissimi programmatori dell'offerta televisiva, La 7 per esempio, che immaginavano invece una specie di domino che iniziava dall'Olanda, si espandeva dalla Francia, arrivava con la vittoria dell'Alternative für Deutschland in Germania e ci portava diretti al 1914. Invece, a quanto pare, cari intellettuali, giornalisti e politici, le cose stanno andando molto, molto diversamente. Per ora. Per ora, ho capito. Però anche il fatto che Schulz stia andando sotto e non e Schulz, stiamo parlando cioè di una controfferta rispetto alla Merkel, comunque interna a un recinto di non rottura dell'Europa, perché questa è la verità. Anzi, anche se c'è un europeista è proprio Schulz. Allora, per questo dico, però sono alcune coordinate su cui leggere le faccende europee. Però, cioè, io ho l'impressione che Brexit abbia fatto perdere la testa a parecchi degli intellettuali, Brexit, dei giornalisti e Trump, italiani. Pur contesto completamente diverso. Ma qualcuno Trump pensava a un megadomino. Ho capito, ma Trump non parla di un fenomeno, Occupy Wall Street, con tutto il rispetto, non è Tsipras e non è Podemos, perché sono due cose diverse. Se si crede improvvisamente che l'America e l'Europa siano analoghe, beh, secondo me ci si dimentica di alcune cose. Che dici, Carlo Alberto? Ma dico che sicuramente quell'onda si è infranta contro gli scogli famiglie del buon senso e anche della paura e della conservazione che è poi emersa dalla Francia, no? In questo senso non esaltiamo Macron, c'è stato secondo me grande paura dell'ignoto e dell'incertezza legittima. Però tornando al tema di Schäuble, la vera polpetta avvelenata stava nella vexata questo del rapporto fra banche, titoli di Stato e governo in Italia, perché lui ha detto chiaramente bisogna riconoscere la non neutralità dei titoli dei singoli Stati. Sì, sì. Questa cosa qua, che è il suo martello storico ed è un tema ovviamente cruciale per noi, perché se si introduce una pesatura diversa, ovviamente se si cambiano i fattori di rischio correlati ai titoli di Stato, finalmente dal mio punto di vista si scollega quel cordone ombelicale tra banche e Stato, che invece poi produce tutti gli effetti che abbiamo visto. Questo è un elemento importantissimo, perché è chiaro che è la leva, se volete, tecnica per incunearsi nella forzatura sul debito pubblico italiano, che non si riesce a far ridurre per via politica, e a questo punto invece verrebbe indotta questa forzosa riduzione per via tecnico-finanziaria. Ecco, a me sembra che quella è il passaggio più importante dell'intervista di Schäuble ed è il passaggio vero di un eventuale asse franco-tedesco. Non so se ne pensi tu anche qualcosa del genere. No, io sono colpito dal fatto che Schäuble, come dice Mario, dice sempre le stesse cose e ha in mente più lui un'Europa del futuro, ripeto, su scuola, digitale, eccetera, eccetera, di quanto non ce l'abbia chi si incardina solo sull'idea, no, ci dovete far fare deficit libero, la parola d'ordine lanciata da Renzi questa settimana è deve rimanere una sola regola, 3%, e basta romperci i coglioni col debito pubblico, il che la dice lunga su tutto, per carità. Vi invito a leggere, cari amici liberali che leggete il Foglio, l'intervista entusiastica del direttore del Foglio, io continuo sempre meno a capire gli amici del Foglio su questo, a Renzi dice tra l'altro che De Bortoli è uno ossessionato da lui e quindi liquida la faccenda con una risata, non mi sembra la maniera giusta di trattare queste cose. Lo dico perché gli amici del Foglio, più di tanti altri, dovrebbero capire che c'è un crinale tra chi sull'Europa scherza, e in Italia riguarda anche Renzi la faccenda, e chi invece parla di cose serie, ecco, di cose serie, cioè non dice il debito pubblico non esiste. Ecco, il debito pubblico esiste e invece bisogna fare seriamente qualcosa. Però quello che mi ha colpito è che i tedeschi hanno non una, ma due offerte possibili nel campo della governabilità dei processi europei. Ce ne hanno due sul campo. La Francia se n'è inventata una. La Francia non dimostra affatto, cari amici in ascolto, che è finita la frattura in Europa tra le vittime della crisi e chi sta meglio, come non è finita in America. Cioè, il motivo che spinge la gente a identificarsi nei sondaggi in Italia, per esempio nella sopra, i 5 Stelle da una parte, Fratelli d'Italia, Lega dall'altra, resta fortissimo. Quei fenomeni ci sono e come. Un'imposizione progressiva solo sul lavoro, come in Italia, per il resto progressiva, è una roba da paese sfasciato, da sfascia carrozze. Di questo dovrebbero capire i politici invece che insultarsi e dicendo vengo a fare la ramazza nella tua Roma sporca o vengo nella tua. Allora, quello che dico è che però è per me importante notare che la Germania e la Francia hanno soluzioni ai problemi veri della crisi di questi anni, devastante nella piramide dei redditi e intergenerazionale, che però non sono salti nel buio, come vi hanno raccontato negli ultimi due anni che siamo senza alternative. Se volete dare una spallata al vecchio sistema dei partiti, bisogna suicidarsi con un salto nel buio. No! Da quei grandi paesi viene una prospettiva. Certo, bisogna che ci ragionino le persone che ci possono ragionare, perché se no la protesta aumenta in Italia e l'Italia diventa l'unico vero grande paese europeo. Lo è, dai, tu, alla fine che etichetta come una bomba. Certo, siamo rimasti la bomba innescata, ecco. Perché anche Macron ha riconosciuto che le ragioni, magari male esposte, di chi sentiva quel disagio, certo, vanno ascoltate. Certo, però, e secondo me questo è un atto di grande intelligenza. Che dici, Marco? Il fatto che i sondaggi indicassero che circa il 70% dei francesi fosse contrario all'uscita dalla moneta unica, no? Il fatto che la stessa Le Pen negli ultimi giorni di campagna elettorale, ma anche nel sanguinoso dibattito del mercoledì, ha fatto dei casini che metà bastava, annodandosi e l'EQ e le geometrie variabili, questo e quell'altro. I francesi hanno votato per restare nell'euro, a loro non gliene frega un accidente di Macron. Appena Macron comincerà a fare politiche vagamente neoliberali, neoliberiste, come le intendiamo qua in Italia, avremo le piazze francesi piene e torneremo al via. Va bene, torniamo tra un minuto. Fratelli d'Italia, l'Italia l'è mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Allora, abbiamo un ospite internazionale, cari compari, abbiamo un ospite internazionale, purtroppo c'è bisogno di una traduzione dallo spagnolo, perché potrà intervenire solo in spagnolo. Hola, compañero Cifarellos. Buongiorno. No, in spagnolo ci devi parlare, non in italiano. Adesso non c'è neanche uno con il suo bel accento teutonico. Allora, dovete sapere, non stiamo scherzando, il mio spagnolo è pessimo. Reduce da una delle tante fiere internazionali. Però io adesso dico la verità, perché io quando ho visto come si chiama il prodotto che vede il maggior successo, esatto, non ho potuto fare a meno di richiamare l'attenzione degli amici. Si chiama Vibrador. Il Vibrador. Dai, dici la verità. Altro che macchine agricole. Tu vendi oggettini di piacere, caro Cifarelli. Sì, vendo oggetti di piacere per raccogliere le olive. Ah, quindi è il Vibrador de los Olivos, ho capito. Ma davvero si chiama Vibrador? Certo, sì, anche se poi viene chiamato Variador, perché Variador. Diciamo che la ricerca su internet è meglio Variador. Porta a strani risultati se usi vibratore. Ecco, dovremmo tassarvi anche le ricerche su internet dei vibratore, te lo dico ma io. No, ma perché? Ma adesso, per chi non avesse un'idea, perché effettivamente la raccolta di olive avviene appunto scuotendo, quindi facendo, esatto, vibrare. Solo che quando ho letto il vibratore ho detto: ah, ecco perché l'amico Renato Cifarelli è così tanto più giovane di quanto non dica la sua anagrafe. Perché questo commercio. Ma certo, sarai stato molto impegnato nel commerciale in Spagna in questi giorni per le dimostrazioni, immagino. No, beh, avevamo una fiera, la fiera più importante delle olive in Spagna, nella zona più importante al mondo di produzione di olive. Quindi Senti, ma questa settimana ti sei risparmiato l'esplosione del caso De Bortoli, liquidato da oggi come un'ossessione personale nella sua intervista al Foglio? Io questa settimana ho fatto una cosa molto semplice. Siccome sono usciti anche i dati di crescita dell'Europa, sì, ecco, ho guardato ed ero nel right place, come si dice. Nel place giusto. To be, the last one. Visto che la Spagna quest'anno scrive un bel 2,8 contro il nostro misero 0,7, che vuol dire 4 volte. Ma lei, infatti, la Spagna cresce in un trimestre quanto noi cresciamo in un anno. E quindi, sai, è la colpa dell'euro. Non no, so nel frattempo, dire. Con la legge proporzionale ci candidiamo a fare anche noi lo stesso numero di elezioni in pochi anni per vedere se dipende da quello. Ma scopriremo che nel nostro caso non funziona quello che ha funzionato in Spagna. Però... Ma sai, poi il problema è questo: che le aziende hanno i piedi, no? E quindi vanno dove gli conviene. E quindi in questo momento cosa fai? Vai nei posti dove puoi portare a casa delle buone crescite, sicuramente. E quindi eravate in Italia, però presidi molto di più, al di là del fatto che per noi è sempre stato, naturalmente, facendo quella macchina lì per le olive. Ma l'impressione è che è ripartita davvero la Spagna, vedendolo anche dal punto di vista di uno che fa una fiera in quel settore lì, gli ordini come vanno? Ma adesso, sai, allora, gli ordini in questo momento non vanno, nel senso che naturalmente, essendo la raccolta delle olive, è legata a quella parte del... Chiaro. È un prodotto molto stagionale. Diciamo che la raccolta quest'anno dovrebbe andare bene, e in questo momento l'olio ha un prezzo veramente molto alto, quindi c'è volontà di... di investimenti da parte dei ma nel caso italiano sai che c'è sempre un'altra maniera, quello di sfrangerci le olive, quelle che ci abbiamo in mezzo alle gambe. Lo Stato farà così per portarlo a casa e lo elearsi. Continuare con l'ascolto Radio 24, appuntamento con me Alessandro Milano alle 8:20 di lunedì mattina. Fai più forte e